Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail alla quale scrivere: un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo il mio blog, Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. E vi ricordo infine che se vorrete scaricare le puntate di questa trasmissione potrete farlo accedendo al sito di Radio 24, che è radio24.it, molto semplice. Allora, tra le lettere che abbiamo ricevuto ce n'è una, devo dire, che mi ha colpito molto. Posso definirla curiosa, ma in realtà dietro la curiosità si cela un vero e proprio problema di industria, quindi di impresa, quindi di economia e anche, se vogliamo, di gestione della cosa pubblica, di gestione della sanità, di gestione anche delle risorse. La lettera è giunta dall'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, Assovetro, e la vicenda riguarda l'ospedale di Niguarda di Milano. Che cosa accade? L'ospedale di Niguarda ha deciso di sostituire alcuni contenitori contenitori perfusionali, vale a dire quelli che rilasciano nell'organismo in maniera lenta e continuata sostanze farmacologiche, mi viene in mente la flebo, di sostituire questi contenitori in vetro con dei contenitori in plastica. Il risparmio sarebbe più o meno quantificabile in 280.000 euro. Questa decisione non piace agli industriali del vetro perché dicono: beh, insomma, in questa maniera in realtà non soltanto si possono mettere in ginocchio alcune imprese italiane, ma non è che poi questi contenitori garantirebbero, ed ecco qui il punto del supposto abuso che a me interessa più degli altri, standard di sicurezza paragonabili al vetro. Per questa devo dire molto interessante contesa io ho chiamato a parlarne l'ingegnere Francesco De Bartolomeis, che è l'amministratore delegato di Rocco Bormioli Spa, che tutti voi conoscete sicuramente, è membro del consiglio di Assovetro. Buongiorno ingegnere. Buongiorno a tutti. Buongiorno, e do il buongiorno a Luciana Bevilacqua, che è direttore del servizio qualità e sicurezza dell'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno dottoressa Bevilacqua. Buongiorno. Allora, io direi di partire dall'accusa, vale a dire chi dice perché questa decisione, una decisione che non piace al punto che c'è stato un ricorso al TAR, che però è stato perso da parte di Assovetro, e ora la parola è al Consiglio di Stato. Ingegner De Bartolomeis, perché non vi piace questa decisione assunta da Milano? Io, più che come vicepresidente dell'Assovetro, come cittadino sono abbastanza indignato da queste scelte, che sono assolutamente discutibili. Ci sono migliaia di argomentazioni che riguardano il trasporto, l'impilabilità, lo stivaggio, le cessioni e soprattutto lo smaltimento della plastica, che come tutti sappiamo è un materiale non riciclabile. C'è un problema enorme in Replast, che produce 500 milioni di tonnellate e ne ricicla soltanto 70-80 mila. È un disastro nazionale, mondiale, come tutti sapete. Ci sono mari inquinati con pesci che stanno morendo. Non è assolutamente vero che la plastica è più economica, perché i costi di riciclaggio sono più alti e ci sono argomentazioni a iosa sui quali potremmo anche scendere se qualcuno da fare delle domande. È quindi una situazione assolutamente incomprensibile. Non ultima il discorso che andiamo a colpire industrie italiane che producono i contenitori di vetro, che sono apprezzati in tutto il mondo. Andiamo a colpire decine di aziende, di piccoli, che producono per ospedali questi prodotti e che, se prendiamo questa china, dovranno chiudere, far posto a un prodotto molto meno pregiato e rischioso. Non si capisce né il come né il quando. Ecco, ingegner De Bartolomeis, ovviamente io suppongo, ma mi corregga se sbaglio, che se questa china fosse percorsa anche da altri ospedali, insomma, probabilmente, se Niguarda farà da apripista, beh, obiettivamente l'industria del vetro sarà veramente piegata, perché se tutti gli ospedali seguissero la stessa tendenza, credo che per voi sarebbero seri problemi, o mi sbaglio? intanto è uno scandalo perché non si può fare un concorso one way dove non ci sono scelte, perché il produttore di questa bottiglia è un tedesco, è uno solo, e un'altra multinazionale compra gli impianti per fare la stessa roba. Tutti gli altri produttori sono tagliati fuori, quindi c'è una violazione violentissima alla libera competizione, che non è accettabile in tempi in cui l'antitrust combatte questi fenomeni. Il discorso è che ci sono almeno 10-15 aziende di piccoli che producono, comprano dalle vetrerie i contenitori di vetro e producono questi prodotti per gli ospedali. Sono 200 persone, ci sono aziende di grosse tradizioni, un impianto per produrre la plastica, perché la plastica va fatta in casa, costa 20 milioni di euro, per queste aziende questo è un fatto insostenibile. Conclusione di tutto, andiamo in mano a un monopolio, duopolio, che di qui a poco deciderà lui che prezzi fare, e faremo chiudere 10-15 aziende che da generazioni, perché il vetro accompagna l'uomo, non dimentichiamolo, da 8.000 anni, dal tempo dei Fenici, e ha fatto sempre del bene all'uomo, a favore di un'industria tedesca. Ecco, voi avete visto. Allora, io direi che le ragioni le ha spiegate benissimo, le ragioni, diciamo così, che si contrappongono a questa scelta. Dopo l'accusa è doverosissimo dare la parola a quella che chiameremo difesa, ma impropriamente tanto l'accusa quanto la difesa, diciamo così, la controparte di questo contenzioso. Dottoressa Bevilacqua, ha sentito, le critiche sono durissime. Ecco, come risponde l'ospedale di Niguarda? E sono veramente ad ampio raggio, per cui richiederebbero probabilmente molto più tempo e anche sicuramente diverse competenze per poter. Ecco, però la sintesi deve contraddistinguerci. Ecco, la sintesi che io le faccio è questa: Niguarda è andata in gara con una procedura di gara in cui ben 5 imprese si presentarono, dopodiché vi è stata una procedura che ha seguito il nostro responsabile, sulla quale ovviamente poi risponderà, ma mi sembra che non sia questo l'ambito della... No, infatti più che altro vorremmo capire perché questa scelta di fondo... importante, sul quale appunto veniva addirittura messa in evidenza una possibile anomalia. Quello che a me spiace è che appunto, come l'ingegnere ha detto, essendo lui un cittadino ed essendo anche un possibile paziente, non veda quelli che possono essere invece state le valutazioni oggetto della scelta, per cui Ma ce le dica, dottoressa Bevilacqua, però ce le dica, perché allora la sicurezza intesa sotto tanti profili e tanti ovviamente ambiti. La sicurezza per i pazienti, non è assolutamente vero, e solo chi non conosce come gestiamo i processi può affermare quanto è uscito nella intervista sul giornale. I pazienti sono movimentati e spesso hanno la necessità di avere il presidio collegato, la flebo collegata, a differenza di quello che dicono, perché sono malati spesso critici. Trasportare del materiale di vetro, trasportare del materiale di plastica per noi è sostanzialmente diverso, perché la plastica ha ovviamente tutt'altra tenuta. Ecco, ma la smaltite, poi avete un processo di smaltimento, cioè avete anche una catena che vi porta in una filiera di smaltimento, come dice l'ingegner De Bartolomeis? Poi in realtà voi avrete anche un risparmio, ma poi a pagarne le conseguenze sono i cittadini, perché questa plastica poi non si smaltisce, a differenza del vetro. Non la mettiamo sotto l'aspetto delle risorse e basta, perché la sicurezza non è misurabile anche e solo in economia. Allora, la sicurezza del trasporto, la sicurezza nella gestione di questi strumenti in mano agli operatori e ai pazienti, la sicurezza per i pazienti ma anche per gli operatori che devono movimentare dei pesi diversi. Non dimentichi ad esempio che se cade un contenitore di vetro, ad esempio allestito con una chemioterapia, noi se il vetro si rompe buttiamo via ben altre quantità di denaro, sempre pubblico. Se ci cade un contenitore di plastica avremo sicuramente da pulire, mettere in ordine, ma non buttiamo via cifre che sono sostanziali, ben diverse da quelle che sono state citate, e solo chi conosce i processi chemioterapici sa esattamente l'entità. Quindi voglio dire, voi non tornate indietro e soprattutto come rispondete a questa accusa, che poi alla fine si finisce con il nel favorire due multinazionali, in realtà una, e quindi alla fine poi magari il costo che oggi è un risparmio in realtà un domani non lo sarà, perché in un regime di monopolio il prezzo lo fa chi lo gestisce questo monopolio. Mi scusi, di fronte a delle esigenze che il cliente manifesta, di solito è il mercato che ci si deve adeguare. Benissimo, io direi, perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è concluso, che vi ringrazio per i vostri interventi. Il radioascoltatore valuterà le riflessioni che abbiamo fatto insieme finora. Io seguirò questa vicenda perché c'è un Consiglio di Stato che deve esprimersi. Ringrazio l'ingegner De Bartolomeis, la dottoressa Bevilacqua, in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento domani per una nuova puntata.